Il giorno dopo le 9 del mattino cominciò finalmente, anche per Fantozzi, la felice vita del pensionato. Ughino. Amore, sono le 9. Le 9! Ugo! Sono in ritardo! Rock FM. Mitico, inconfondibile chitarrista della formazione AC/DC risponde al nome di Angus Young e nel test attitudinale di quest'oggi vi chiedevamo come si presenta ai concerti, forse come ipotizzato dalla soluzione A, vestito da donna? No. Molti ai per dirvi che se avete scelto questa opzione avete sbagliato. Avete toppato. Mentre forse si presenta con l'uniforme scolastica della scuola, come ipotizzato dalla soluzione B? Ebbene, se avete scelto questa seconda risposta, dica, la prego. Ci avete azzeccato! Evviva! Segnaliamo che leggende di corridoio vogliono che fu la sorella a consigliare ad Angus Young di indossare l'uniforme scolastica della Ashfield Boys High School, la scuola proprio del buon Angus, che è diventata l'uniforme un segno distintivo della band. Per la cronaca, nelle primissime esibizioni Angus Young indossò vari vestiti prima di arrivare a quello da scolaretto, tra i quali anche uno da Superman. Complimenti. Complimenti ad Angus Young. Lei si è mai vestito da Superman? No, risparmiate il pubblico, almeno in questo delirio. Devo dire che però è stato determinato, si voleva assolutamente travestire questo, può essere, Angus. Sì, ma ha fatto bene. Forse non si piaceva. Può essere. Chiudiamo con questa domanda psicologica e segnaliamo che non si è mai vestito da diavolo. Bravi se avete azzeccato, male se avete sbagliato. E comunque, due punticini per chi ha risposto esattamente, per chi ha sbagliato rimanga in ascolto di Pane, Burro e Rock and Roll, dove il rock è per tutti. Ha detto bene. Su Rock FM. Yeah. Shoot Me All Night Long. Yeah, AC/DC. Wow, che inizione per gli ultimi 25 minuti di diretta di PBR. Oggi, ragazzi, è il vero delirio. Al 335-100-7777, uno su tutti. Sentite cosa mi scrive. Perché adoro PBR? Perché sono tutti scemi come me. Ciao Mike. Ciao Mike, siamo in squadra con te, vinceremo, vedrai. Allora, tanti commenti per gli addobbi natalizi, ci proverò veloce. Ruggero l'autista dice: l'addobbo di Natale mette felicità, allegria in una città triste e grigia. Ruggero, facci anche tu le segnalazioni, no? Se non sei di Milano. Saluti a Onze, saluti a Mirko, saluti alla Cri, che chiede: ma se chiamo il tassista Tino, mi fa lo sconto corsa? Prometto di salire davanti e di cantare con lui le canzoni di Rock FM, volume paletta, e volendo posso fare anche la band, scuotendo il capo. Ciao. So già la risposta, Cri, è ovvio che ti fa lo sconto. Riccardo, Monica ci segnala domenica in televisione spot che proponeva Babbo Natale rampicante a 6,99 euro. Carlo, mia figlia 2 anni e mezzo, al suono di Crazy Train camminava per la sala a pazzi piccoli, un po' curva e battendo le mani con gli occhi spiritati. Orgoglio di padre. Ciao Carlo, vogliamo anche testimonianze dirette dei vostri figli. Fate, iscrivetevi al coro, iscrivetevi al servizio. Capisco Tino, scrive qualcun altro. Vorrei fondare il gruppo d'ascolto, aperte le virgolette, Natale va bene dal 15 al 25 dicembre, non un giorno di più. Solidarietà all'amico Tino. Ragazzi, siete veramente tantissimi e qui devo proseguire con un po' di buon rock and roll. Angel of Harlem, you too, anche tu sei importante per pane, burro e rock and roll. Cosa puoi fare per noi? Love won't let Oramai da qualche giorno sta prendendo piede questa nuova rubrica, il corso per diventare come Frecantoni. Non mi sembra giustissimo far entrare dei soldi in tasca sua tramite il mezzo radiofonico, ma... Ma lei, DJ Ariele, mi è testimone. Io, che sono naturalmente modesto, che sì, quindi ho dovuto forzarmi per l'avviamento di questo corso. Ho fatto di tutto per dire: ragazzi, non fatelo, voi avete insistito e allora... Dicono che gli iscritti sono tantissimi, sì. A oggi io ne ho sempre sentito uno solo. No, temo centinaia, migliaia. Che anche quest'oggi sia sempre lui. Pronto, Gian da Genova, il gelataio, sei tu? Pronto? Pronto, sì. Sei Gian da Genova il gelataio? Assolutamente no. No, oh, un nuovo iscritto. Visto cosa le dicevo. Benvenuto sulle frequenze di Rock FM, lei è? Piacere, io sono Black da Milano. Oh, Black da Milano. Anche lei si è iscritto al corso, come ha fatto? Allora, ho mandato un SMS. Sì, sì. Al numero di Rock FM? Certo. Ed sì, è stato ricontattato? Perfetto. Frick, lei non deve usare il numero di Rock non FM? Non devo? No, non può. Ma dice il numero di SMS della radio 335 177 77? Sì, è proprio quello della radio. Ah, perfetto, quindi non devo usarlo. No, non deve usarlo. Ho capito. In ogni caso, Black, benvenuto al corso per diventare come Frecantoni. Saprai che l'importante di questo corso, oltre a pagare la rata... è che è già stata inviata, spero, dottor Black. Già fatto. La ringrazio. È la parola d'ordine: allenarsi, allenarsi, sì, allenarsi. In altre parole, esercizio, esercizio, esercizio. Scusi una domanda in apertura, dottor Black. Mi dica, lei è solo o è accompagnato anche dal dottor Decker? L'irresistibile Frecantoni. Guardi, anche il suo allievo se ne rende conto. Black, ma lei stende un velo pietoso o peloso in questi casi? Non ne usciremo mai più. Black, la prego, controbatta con la sua in diretta a Rock FM, il secondo iscritto al corso per diventare come Frecantoni. Vai, colpo di genio, ci dica. Niente, ieri sera ero nella mia camera verso l'imbrunire, sì, e mi son chiesto: ma a Genova fa buio pesto. Promette decisamente bene, caro Black. Mantiene di più. È arrivato il momento di congedarci. Ecco, la saluto e mi raccomando con garbo, ma certamente sottolineo la seconda rata. Basta, no. Non mancherò, maestro. Black, grazie mille, alla prossima. Ci saluti, Decker. Non mancherò. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down. Take you in my arms. I'm in love with you. Love that is true. Me out right off of my feet. When you walk that walk and you're talking that talk, you knocking me out right off of my feet. Right now, now, now. I need you right now. Right now, now, now. I mean right now. Right now, now, now. I don't mean oh, yeah. tomorrow. Right now, now, now. I mean right oh. now. Right now, now, now. Come on, come on. Yeah. Come on, shake it up, baby. Oh, oh, oh, oh. È semplice suonare la chitarra con la bocca, è roba che viene abbastanza spontanea e si può fare seguendo Rock FM 24 ore su 24. Gli Animals di Boom Boom, pane, burro e rock and roll. La nicchia vincerà, Davide sconfiggerà Golia. Perché giochiamo sporchi dalle frequenze di Rock FM. Sappiamo che per alzare gli ascolti non c'è niente di meglio che un po' di buon soft core, detto anche soft porno. Abbiamo iniziato lanciando l'appello ai radioascoltatori di descriverci i calendari di donne nude nelle edicole. Devo continuare fondamentalmente a sgridare i maschietti all'ascolto, perché si sono fatti decisamente bagnare il naso da lei, la mia radioascoltatrice preferita. Si chiama Rosy e si occupa dei maschi nudi. Ciao Rosy! Ciao, è uno sporco lavoro, qualcuno lo deve pur fare. Giorno dopo giorno, Rosy io la sento un po' meno convinta in fuori onda. Cioè, a volte cerca di dirmelo, Ariel, ma sei sicuro di sta cosa degli uomini nudi? Sì, Rosy, fidati, è vincente. Speriamo. E poi si sente l'impegno. Posso? Ti faccio una promessa, se vuoi. Sì, sì. Per l'anno prossimo cambiamo rubrica. Trovi 12 maschietti che vengono qua da me a fare le foto? Questa potrebbe essere un'altra. Stai attenta a dirlo. Stai attenta solo a dirlo, perché abbiamo il tassista che gira, che potrebbe raccattarli anche tutti in un colpo solo. Va bene. Rosy, occupiamoci di maschi nudi alla radio. Che di cosa parliamo oggi? Oggi sdoganiamo i genitali maschili. Parliamo del lato A. Non vedevo veramente l'ora. E faremo il picco, perdonami. Immagino, adesso tutti cambieranno stazione. No, non credo. Stiamo per vedere quel coso lì alla radio e ce lo farà vedere Rosy. Di che calendario ci occupiamo? Ci occuperemo del calendario degli uomini dell'isola Fire Island, che è un'isola al largo di Long Island. L'isola del fuoco. L'isola del fuoco. Che già promette bene. Promette benissimo. Sì. Come ti avevo detto, è divisa in una sorta di club vacanza, divisa in 17 comunità con diverso orientamento, cioè quella per le famiglie, quella per i single e due per i gay. Sia gay che lesbo, insomma, sia uomini che donne. Ogni anno queste persone a quanto pare fanno un calendario, fanno un concorso in mezzo ai rave party e parleremo di questo simpatico manufatto oggi. Cioè, all'interno di Fire Island ci sono 17 comunità e noi siamo andati a prendere quella dei gay, giustamente. Ho cercato quella dei vecchietti, ma non hanno fatto il calendario. Perché c'è anche la comunità di vecchietti. C'è quella per i vecchietti, sì. Fire Island, detto così, è un buon posto dove andare? È un bel posto, perché comunque pare essere l'unica che ha rispettato la natura circostante. Hai capito? È un parco, quindi. Va bene, occupiamoci del calendario dei maschietti felici di Fire Island. Prenderai un mese a caso. Questa volta ci danno un po' più dentro rispetto al solito. È molto molto soft. È definito con foto che non offendono il pudore. Infatti le pose sono artistiche. Sì. Quella che ho scelto. Beh, quello si dice sempre, perdonami però. Erano foto artistiche. Sì, sono. Ma riprendono le pose di alcune opere d'arte. Ah, ad esempio. Igo. Cioè, abbiamo un David di Donatello? Tra queste no, però abbiamo una posizione tipo egizio. Quindi spiaggia. Sì. Bianca. Vabbè, ferma, ce l'hai in testa il cappellino triangolare? No, perché? No, così non faceva molto egizio. Primo triangolare. No, va bene, ok. Okay. Lei è tutto in new. Questo che me. Allora, Rosy, mi stai facendo perdere il filo. Questo è il mese di aprile. Ok, aprile. Lei è tutto in nudo? È tutto in nudo. Completo. Completo. Ritratto su una spiaggia bianca. Sì. Perché ricordiamo che è un banco di sabbia, in sostanza, questa isola. Onda che schiumeggia all'orizzonte. Quindi sì. Immaginatevi lo schiaff dell'onda. Sì. Lui ritratto con il corpo di fronte, e qui sta la genialata, viso di profilo leggermente girato, proprio come nei bassorilievi egizi. Gambe? Gambe piuttosto affusolate, abbastanza effebico come bene, glielo concediamo. Sì. Pettorali appena accennati, quella bellezza maschile che deve ancora sbocciare. Chi ha più di 30 anni potrà capire. Io lo sento che stai prendendo la rincorsa, Rosy. Perché ce l'hai promesso. E diciamo che è poco dotato. No, delusione. Cioè, si può ingrandire quanto vuoi la foto. Credo che gli amici saranno contenti, però, sai? A noi maschietti fa piacere sapere che c'è in giro qualcuno che è così. Non, sì, sembra appunto una bellezza che deve ancora sbocciare. Diciamo che potrebbe migliorare con gli anni, non lo so. Però tanto è gay, senti, quindi non mi interessa. Ricevo in diretta un SMS: nudi ma gay, noi femminucce ci tagliamo le vene. Firmato Simo. Allora, prima di tutti, se volete fare anche voi calendari nudi, fatelo. Non è che li deve far solo Rosy. Giusto? E poi era per introdurre quello della prossima volta, che sarà una mazzata, quindi. Oh, no, in che senso? Dimmelo subito, ti prego. No, te lo dico dopo. Ah, ok, va bene. Comunque, quando dici una mazzata, intendi una mazzata. Esatto. Ciao, Rosy. Ciao. E me, che c'è? Cried a thousand rivers, but now you're I'll be there for you. Con cambio di tonalità, vecchio fricchettone. Bon Jovi. Come cazzo si fa a cambiare la tonalità a fine pezzo? Dai! È veramente tamarro. Va bene, non, nulla contro Bon Jovi, che saluto e ringrazio. Non starò a leggere i commenti arrivati dopo la telefonata di Rosy, ve li evito e soprattutto li evito a lei. Sappi, cara Rosy, che la redazione di Pane, Burro e Rock and Roll in ogni caso sarà dalla tua parte. C'è qualche maschietto che fa, hai capito? Fa galletto quando sente queste cose. Va bene. Allora, vi ricordo gli appuntamenti del weekend. Nello specifico, ne ho uno in particolare. Questo sabato all'Alcatraz di Milano, sabato 10 novembre, dove dividerò l'ambito palco dell'Alcatraz con il collega cappellone Max De Riu questo sabato. Tra l'altro mi fanno sapere, così a fine trasmissione, che grazie a un invito che ho in mano in questo momento, se siete interessati a passare sabato, avrete anche una riduzione. Questo invito è depositato nella portineria di Rock FM, via Locatelli 1, 20-124 Milano. Se siete interessati, passate lì, chiedete a Lillo orari di portineria e vi danno la riduzione. Mi piace molto questa cosa. Tra l'altro, Tino Tassista, dovresti anche passare a recuperarne un po', che magari li smazzi dal taxi. Potrebbe essere un'ottima idea. Un minuto alle 9, sigla! Da in giro sul taxi, mi sembra una buona idea, no? Riduzioni per sabato. Buona, mi piace. Pane, burro e rock and roll. La vostra colazione rock termina così. La tua colazione rock. Se vi siete persi parte del programma, tranquilli. Pane, burro e rock and roll. Lo ritrovate su RadioRockFM.com oppure su MySpace/PaneBurroFM. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. E noi ci si risente domani, mentre vi lascio nelle mani di Marco Garavelli in splendida forma. Presente, portineria chiusa il sabato, Erico. Il sabato è chiusa. Oh, sai che se piglia piede sta cosa di fare, cioè di far venire Lillo, i radioascoltatori con Lillo, secondo me è galattica. No, mi piace l'idea che arrivino, cioè, tipo dei metallari di 2,5 metri. Salve, Lillo, è lei? Secondo me si piglia male. Ieri ho salutato un amico dal Vietnam, oggi lo saluto dalla Sicilia, più vicino, però, insomma, segnalo amico che ascolta dalla Sicilia. È tutto, vi lascio con Garavelli fino al mezzodì. Ciao!